Cari giudici, benvenuti alle votazioni per lo Slam di Natale. Potete esprimere dei voti dall'1 al 10 per ciascun poeta e ciascun nucleo di poesie, che possono essere anche più di una, ma che deve sempre rientrare nei 3 minuti canonici dello Slam. Quindi potete esprimere voti dall'1 al 10, compresi i decimali, quindi 1,1, 8,2, eccetera. Il computo finale del voto per ciascun poeta sarà dato dai 3 voti mediani, quindi il voto più alto e il voto più basso verranno eliminati, ma questa poi sarà mia preoccupazione fare il conteggio. Quindi potete ascoltare tutti i poeti o uno per volta come preferite, attribuite a ciascuno di essi quindi un voto dall'1 al 10 e vi prego anche di comunicarmelo, quindi via mail, comunicatemi i voti in ordine di comparizione dei poeti. Vi ringrazio, vi enuncerò il nome di ciascun poeta prima della sua lirica, senza dare valutazioni in merito per non influenzarvi. Vi prego solo di prestare la massima attenzione non solo per la qualità sonora, che può essere variabile proprio perché sono stati poeti a registrarsi, ma prestare attenzione soprattutto per quanto riguarda il testo e quindi l'interpretazione che si nasconde anche fra i rumori. Quindi vi ringrazio e a presto. Il primo poeta si chiama Viorel Boldis. Il tempo, state a sentire il tempo, ragazzi, come scorre, annusate lentamente il suo dolce odore che brucia le narici e poi giù per la gola la vita passa in fretta, cammina tutta sola. Un passo alla volta, un giorno, una notte, il tempo che ti frega ridendo e ti sfotte, la schiena che fa male, i troppi pensieri. Neanche te ne accorgi, domani è già ieri. Domenica, ragazzi, domenica in chiesa, il Dio che ti spia ti chiama alla resa e tu chini la testa, baci l'anello al prete, sognando il paradiso. È torbida quiete. State a sentire il tempo, un passo alla volta, un giorno, una notte, è il tempo di raccolta, e tu chini la testa al Dio che ti spia, baci l'anello al prete, tieni la retta via, e con la schiena a pezzi arrivi al traguardo. Il Dio che pregavi ti degna di uno sguardo, un cenno con la mano, e sei tagliato fuori. La retta via, dici. La via dei dolori, non far passare il tempo tenendo rette vie e non chinar la testa davanti alle spie, cammina per la strada che vuoi e che ti piace, lasciando camminare anche gli altri in pace. Alla fine, quando dovrai tirar le somme, quando ti chiederanno perché e chi e come, tu non aver paura, il tempo si è fermato, non ce n'è più futuro come non c'è passato, è tutto al presente, ragazzi, è l'eterno. Vi renderete conto, né ombra dell'inferno, né alfa, né omega, né prima e né poi. Il tempo è di Dio, ma Dio siamo noi. Il secondo poeta si chiama Marco Federico Bombi. L'uomo che scrive non vuol più raccontare. Tutto è stato detto, tutto è stato già scritto. Basta ai discorsi preparati, ricette facili. 5 minuti, girare, via, pronte per parlare. Basta ai discorsi ragionati, iniziati, finiti, finti, viziati. L'uomo che scrive non sa più che fare. Forse gli basta la parola spezzata, la voce sospesa a metà, limpidamente confusa, forse la sua incompresa semplicità. Un'aula di lettura, col divieto di fumare, e orario di chiusura. I mesi, gli anni, puoi contare, senza fretta, a dismisura, di un gran giusto processo dove il reo l'han difeso, in una botte l'hanno messo, e lui si è quasi offeso. Su via, condannatemi per Dio! Sbottò praticamente rassegnato. Chi ha rubato, chi ha truffato, sono io! Ma un'ardita tesi sputò fuori l'avvocato. Si convinca, vostro onore, l'imputato è originale. Mi dia retta, metta cuore, non ha fatto nessun male. Pensate, lor signori, ha soltanto barattato soldi, soldi, soldi, con due promesse argute. Non crediate allo reato, le ha mica mantenute. Ma giusto, certo, è vero, che acuta osservazione. Condanniamo per intero la mancanza d'attenzione, che tolta sia l'aria a quei turlupinati. La colpa loro è varia. Ingenui, imbrogliati e per giunta non togati. La terza poetessa si chiama Caterina Davinio. Da Alieni in Safari, Ponta Negra, Brasile. Di notte oceano, nero boato al di là della banchina, ondine di sabbia sotto i piedi e l'ardire di passi estremi, oltre una labile frontiera, il muretto, mezzo metro e al di là infinito nero, al di là il nulla e dal nulla veniva il vento. Una folata continua calda, la sua mano intima a trarre sospiri, indifendibile sulla pelle, alla gola, alla vita, nelle pieghe febbrili dove il desiderio ci sfida. Natale, lo spazio nero del mare, da cui muoveva l'aliseo notturno di Dio, che spira soffi paradisiaci, vellicatori di lascivia, di abiti fluttuanti come vele e monili d'aria nei capelli. Un passo e l'altro, e un altro ancora, lungo oceano e la tenebra, minacciosa presenza della riva in tempesta, invisibile e sovrumana nella notte precoce dell'equatore, e i bambini a mendicare, a vendere bibite e amicizia, innocenza di angeli spezzati, con riccioli biondi intorno all'ovale di Madonna, ella diceva sì all'incredulo viaggiator senza rimorso. E il ragazzo, come una fanciulla, raccontò il suo viaggio e i lucenti occhi facevano a pezzi il cuore con movenza femminea. La meraviglia di fiumi come mai ne vidi di bellezza, gettata a pugni in una semina d'abbondanza, davanti ai chioschi nell'alito serale di panna, tra un ananas e un rum, vodka e ciliegie, frutti maturi di tentazione. Il quarto poeta è Tommaso De Martino. È perché sono stato il tuo pupazzo, che sa che anche a Buddha avresti rotto il cazzo, che non ce l'ho fatta più, con un sol colpo t'ho stesa, t'ho buttata giù. Ti ho tolto il fiato, come con lo sguardo facevi tu, povera cara che ora non respiri più. Ti ho trascinata fuori, sai che anche da morta sei pesante, ma sistemata sul prato, avvolta da neve di vigilia lucente, non ti sento più distante, sei un incanto che voglio armare col bastone e la carota. Happy Christmas! Chi è l'idiota? Torno dentro, cara, il gelo brucia le mani, mentre tuorni ancora il tuo collo del calore della mia stretta. Ma non ti preoccupare, cara, non si scioglierà la neve, stai fresca, il tuo cuore non batte più. Il numero 5 è Alessandra Gorga. Vorrei vedermi coi tuoi occhi quando, tutta spettinata, tocchi i miei capelli e mi dici bella. Vorrei vedermi coi tuoi occhi quando sussurri e ridi e giuri che più bella di me non c'è nessuna. Vorrei vedermi coi tuoi occhi ancorché i miei decretino il giudizio finale, che bella non sono. Ma i tuoi occhi nei miei avrebbero la meglio e giurerei anch'io di vedermi bella, come bella non sono. Il numero 6 è la poetessa Silvana Ponsero. Neve, monocromatici fiocchi, cristallomorfi equilateri, esagoni, ottagoni, simmetria quasi noiosa di numeri pari. Neve sulle luci d'artista nelle vie, sulle insegne dei centri commerciali, sui lampioni delle piazze. Neve, scomoda bellezza per le auto in città, disperazione rassegnata dei portinai, gioia sfrenata per gli sciatori, coperta ovattata sopra i semi in campagna. Neve, turbinante nel vento sibilante, neve sfarfallante nel raggio anabagliante, neve titubante sulla chioma ondeggiante. Neve, giunta silenziosa nella notte, subito disciolta nel sole, ricopri di liquido grigio fangoso il grigio asfalto stradale, annacquando l'ultimo rosso Natale. Al numero 7 invece abbiamo la poetessa Silvia Rosa. Panna, una macchia di tepore, spuma di zucchero, ruvida, granella di onde, bevute centellinandole al bordo, in una grinza del labbro, umida. Vortica il ricordo sul palato e l'arabesco del tuo sapore che ho ritrovato in un'ansa golosa della bocca e che mi sazia, mi brucia la gola, svuotata del battito morbido di farfalla, muta dell'ala soffice del tuo nome che inghiottivo vibrando in un volo, sfiorandoti sulla lingua, goccia a goccia, desiderando l'arsura che tu, solo, sapevi incendiarmi. Mi nutrivi di parole come chicchi di cacao da mare, che mi sgocciolavano sull'inguine, sciolti gli avverbi di tempo, tutti i bavagli candidi dell'indecisione, a pungermi il ventre di fame. E dopo tutto non c'è altro, un guizzo breve, un orgasmo di luce, la legge ferrea del tuo sesso, che non ti amo, io che dico e giuro che ti amo, perché l'amore non piega d'obbedienza, invece io mi spezzo in compromessi, rabbia, schegge che cascano lievi come strette di gelo e tu non senti, immobile di desiderio, impotente, desiderando esserti l'amore che tra noi non esiste, dichiarazione, legati insieme in un nodo. Perché non dire che ti voglio possedere, che mi possiedi, che mi rendi un oggetto fragile, che tremo nelle tue mani? Perché non dire che questo male è necessario di esserti niente? È una definizione, una qualsiasi, che l'essenza è lo schiudersi improvviso dei miei sensi, la carne tenera che spalancandosi ti implora, che dell'amore non conosce nulla, ignora, vuole solo, vuole. L'innocenza crudele, la legge ferrea del tuo sesso, l'assoluzione. Al numero 8 ritroviamo Marcella Saggese. Vigilia di Natale. Che solitudine stasera a pensare cosa cucinare la vigilia di Natale. Cotechino o spezzatino? L'affettato e poi il brodino. E alla fine il mandorlato. Che tutto fosse facile con l'amore è stato un sogno. Lasciarsi imbandire con una tavola, con una tovaglia ricamata di rosso. Ora di là sento vociare. Mio figlio sta guardando il cacciatore. Guerra, guerra, guerra, sparare, uccidere, morire. Niente da salvare, neanche un ideale. Non riesco a ornare la tavola, andare avanti, tirarsi indietro. Ricordo quel film e tutto sembrava più forte. Mentre preparavo la tavola, sapevo cosa cantare. Al numero 9 abbiamo il gruppo Acchiappa Spirt. Delle speranze ruota come un sasso si lancia. senza pietra al collo. È un mattino senza cielo. Nell'intermezzo dello spazio sbilenco si sottrae numeri. Correre dentro, fluire fuori, sbilanciarsi senza meta. Entrare negli occhi malati e fumosi. Correre, correre, correre fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Si è creato un lago di pioggia e dentro, dentro un fiume pieno di giocattoli galleggianti. Navigare dentro la barchetta. Il foro lascia passare piccoli gnomi. Nutrirsi di numeri, dissettarsi di calcoli, giorno, giorno dopo notte, aspettare il risultato finale di quella partita, chissà se il gol ha trapassato la linea oppure se lo ha mangiato. Con piacere quel sorriso della sportellista senza occhi. Mentre si esce dal bagno, si sa che lui è stato a rimanere con l'odore di fogna dolciastra dopo le pappardelle al cinghiale natalizio. Spruzzare forte la manopera dello spray, energico, l'odore copre di vergogna il santo spiacevole vizio del odorarsi dopo la barba che hai fatto togliere giusto il giorno prima di andare a dormire, prima di andare a morire, prima di andare a morire nel sogno. E infine al numero 10 abbiamo Francesco Tontoli. Telefonata non intercettata. Pronto? Sono pronto a parlare e ti parlo da qui, ora che posso, ora che anche il maresciallo che prima ascoltava in cuffia e segnava ha preso il suo giusto congedo e porta il suo cane a spasso in campagna. Sono infine pronto e deciso a dirti che il rumore che di fondo che senti, i tormenti e gli affari maldestri, i delitti commessi a palate, le chiamate di correo, il bottino spartito, le risate e le donne concesse incomodato, tutto il piacevole inganno che intesso è quello che si chiama potere e che per me è sapere e gioco. Tutto questo è solo un olio che sta in superficie e vale poco. E anche se uccide qualcuno, qualcun altro vivrà. E se per caso tu voglia provare paura, ricorda che evocarla per me è uno scherzo. E così con fortuna, invidia e giovinezza, diabolicamente per me, tutto a tempo perso, lasciando stare la saggezza. Perché chi di follia fa l'elogio, come è scritto nell'Erasmo che lessi 1000 anni fa, l'unico che ho letto a dire il vero, tiene in mano il destino di molti e milioni, e le sue truppe cannellate e dorate occupano tutti i ponti e le stazioni. La follia sulle navi contagia le onde del mare, come un petrolio che fa rotta avvelenando le falde e dentro la sua sete ha denti affilati. E così come vedi, questo mondo è diventato un mio divertimento, di cui in fondo non sono contento, perché per amarmi più di quello che imploro non è disposto a darmi altro. Ancora non basta, ti giuro. E mi pare pure che chiedo pochino.